Le 13 in punto. GR 24, il sole 24 ore. Legittimo impedimento oggi alla Camera, i tempi sono contingentati, domani l'ok. Ciancimino a Palermo, Dell'Utri sostituì mio padre nella trattativa tra lo Stato e la mafia. La visita in Israele del premier Berlusconi, giornata di incontri bilaterali. Telecom, Palazzo Chigi smentisce contatti con Telefonica. Buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. La battaglia sul legittimo impedimento è iniziata due ore fa alla Camera e durerà meno di 24 ore. Nel calendario dell'Assemblea il voto finale è già fissato per domani mattina con le dichiarazioni di voto dalle 11 in diretta televisiva. Per sapere come sta andando noi ci colleghiamo subito in apertura in diretta con Montecitorio con Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno, è proprio così dura battaglia nell'aula della Camera sul provvedimento che permette al Premier e ai Ministri di sospendere i processi a loro carico, una sospensione che dovrebbe durare non più di 18 mesi fino all'approvazione di un lodo Alfano bis costituzionale. L'esame è cominciato alle 11, respinte le pregiudiziali di costituzionalità del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, si è passati all'esame degli articoli e degli emendamenti, sono ben 300 quelli presentati da questi due partiti, ma la maggioranza va spedita, sicura di portare a casa il provvedimento, che potrebbe essere approvato domani dopo le dichiarazioni di voto che sono slittate alle 17 di domani pomeriggio. Dalla maggioranza sentiamo allora il leghista Roberto Cota. Si tratta di contemperare le esigenze di far governare chi è eletto direttamente dai cittadini e le esigenze della giustizia. La legge va in questo senso, verso una norma che probabilmente chiarisca questo aspetto, e cioè chiarisca la separazione dei poteri. Chi è eletto direttamente dai cittadini Presidente del Consiglio deve poter governare per tutto il suo mandato. All'attacco invece PD e Italia dei Valori, sono norme incostituzionali che di fatto introducono una vera e propria immunità per il Premier. Sentiamo Di Pietro. Solo in un regime fascista e piduista si può accettare che delle persone, semplicemente perché fanno i ministri o il capo del governo, non devono andare dal giudice se chiamate a rispondere di reati, addirittura se chiamate a rispondere di fatti commessi gravi da loro stessi. Io credo che verso costoro ci dovrebbe essere una legge che dia la precedenza a recarsi dal giudice e non l'impedimento a recarsi dal giudice, ma questo in un paese normale, non nell'Italia. L'UDC invece sarebbe orientato per l'astensione, i centristi potrebbero votare favorevolmente solo se la norma si applicasse unicamente al Premier e non anche ai ministri. E da Montecitorio per ora è tutto, a voi la linea. Grazie Alessandra, un altro fronte di polemica è la legge che dovrebbe regolare l'uso dei pentiti. In diretta Andrea Viali, Andrea. Sì, Anna Rita, fa discutere il disegno di legge che è stato presentato dal senatore del PDL Valentino che è stato tra l'altro anche il relatore di un'altra legge contestata, quella sul processo breve. Bene, modificando due articoli del codice di procedura penale, in pratica il suo provvedimento introduce una serie di limitazioni all'uso dei pentiti e prevede fra l'altro che le loro dichiarazioni possano essere usate come prova solo in presenza di riscontri oggettivi. In questo modo si azzera la lotta alla mafia e oltre la metà dei processi di mafia pendenti verrebbero spazzati via, fa notare l'opposizione che parla di nuova legge ad personam, una legge subito ribattezzata antipentiti o salva Dell'Utri. Il testo infatti è stato presentato a fine novembre, in un periodo in cui, forse qualcuno lo ricorderà, si parlava molto sui giornali di un possibile coinvolgimento di Berlusconi nelle inchieste sulle stragi di mafia e si parlava molto anche delle dichiarazioni del pentito Spatuzza, pentito poi che è stato sentito anche proprio nel processo nei confronti di Marcello Dell'Utri. Bene, a respingere invece dubbi e accuse da parte della maggioranza è lo stesso Valentino, che dice la lotta alla mafia è una cosa seria, quelle dell'opposizione sono soltanto considerazioni superficiali e demagogiche. Il senatore sostiene dal canto suo invece che il disegno di legge che ha presentato è utile per rendere i processi più giusti, processi nei quali oggi, dice Valentino, si fa un uso distorto delle dichiarazioni dei pentiti. A te la linea, Anna Rita. Grazie Andrea, e le polemiche su questa nuova legge arrivano dopo le nuove pesantissime rivelazioni a Palermo di Massimo Ciancimino. In diretta Raffaella Calandra. Raffaella. Parla di entità, di grandi architetti e di trattative sullo sfondo della drammatica stagione in cui lo Stato rischiava di capitare capitolare alla mafia. C'è l'epoca buia delle stragi, con i suoi misteri e le sue nebulose, nelle parole di Massimo Ciancimino nella seconda giornata di deposizione al processo Mori Obinu. Misteri come quello della mancata perquisizione del covo di Riina o della lunga latitanza di Provenzano, per i quali il generale del Rosso ora è a processo. E ora il figlio di Don Vito, il corleonese, dichiara che la cattura di Provenzano i carabinieri non l'avevano nemmeno ipotizzata, perché sapevano, dice, che grazie a lui sarebbero arrivati all'arresto di Riina. Come aveva già rivelato a Radio 24, Ciancimino Junior ripete oggi in aula il ruolo di Provenzano nell'arresto di Totò Riina per far cessare la stagione delle stragi. Stragi che un grande architetto, secondo le parole di Don Vito, riferite oggi dal figlio, voleva che proseguissero. Il contributo di Provenzano nella cattura comunque gli valse, racconta Ciancimino, ancora una sorta di impunità. Don Vito però si sarebbe poi lamentato di essere stato scaricato e sostituito nel suo programma, che doveva essere anche politico. Sentiamo le parole di Massimo Ciancimino. Si stava mettendo in piedi quello che mi pare diceva un programma. C'era una volontà di cercare di non disperdere questo valore aggiunto di questa natura politica, per poter concentrare verso una nuova entità. Secondo Massimo Ciancimino, Marcello Dell'Utri aveva sostituito il padre nelle trattative tra Stato e mafia. Rispondendo alle domande dei PM Ingroia e Di Matteo, sta contestualizzando anche i pizzini del superboss sequestrati nella sua abitazione. Più volte si parla di Sen e questi, dice Ciancimino Junior, era Marcello Dell'Utri, che aveva rapporti diretti con Provenzano. Il senatore ha già però in passato smentito tutto quanto Massimo Ciancimino aveva già in qualche modo rivelato. Saremo a vedere nel pomeriggio come proseguirà questa deposizione. Anna Rita. Grazie Raffaella, e noi parliamo di politica con le regionali e le trattative in corso. A poco meno di due mesi dal voto, lo schieramento per le regionali ha ancora diverse caselle vuote e le fibrillazioni della politica si riflettono nell'elettorato in una forte indecisione. Un sondaggio Ipsos, Il Sole 24 Ore, registra che l'area degli incerti e del non voto tocca ormai il 35,8%. Tra chi esprime un orientamento, il primo partito resta il PDL al 38,1%, il PD al 29,5%, la Lega al 10,5%, l'Italia dei Valori si ferma a quota 7. L'UDC al 5,9% cede qualche punto rispetto ad Europa e sondaggi di novembre, ma è l'ago della bilancia. Sul campo la politica è ancora alle prese con il gioco delle caselle da riempire. In Lombardia il PDL incassa la rottura con l'UDC, che punta sull'ex leader della CISL Savino Pezzotta. In almeno tre regioni, Calabria, Campania ed Umbria, è il Partito Democratico ad avere i problemi maggiori. A Napoli la scelta di presentare il sindaco di Salerno De Luca accende la polemica. Non c'è solo il no della sinistra radicale o dell'Italia dei Valori. Anche Bassolino, grande sconfitto, torna sulla vicenda e accusa, sconcertante, che non si sia cercato un'intesa su personalità esterne. Poi c'è la partita di Bologna. Il no di Prodi, si è capito, nasce anche da una certa tiepidezza del PD. Il candidato sarà trovato con le primarie, ma l'ex sindaco Vitali avverte, gli elettori sono arrabbiati. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. E proprio a Bologna era dedicato il nostro sondaggio. Parafrasando il PD di veltroniana memoria, i nostri ascoltatori vorrebbero il ritorno di Romano Prodi, ma anche no. Il nostro sondaggio di oggi prendeva spunto dal pressing esercitato sull'ex presidente del Consiglio per candidarsi a sindaco di Bologna. Ma il PD dovrebbe ripartire da Prodi, vi chiedevamo? Nel sondaggio più votato di sempre, oltre 6.000 voti, vincono di poco i no con il 54%. Un uomo di sinistra come Piero Sansonetti, direttore del settimanale Gli Altri, sponsorizza invece la scelta di Prodi. Ma io penso che sarebbe un'ottima idea. Prodi potrebbe però, e questo è un fatto secondo me positivo, ma che può essere visto con sospetto dal Partito Democratico, rimettere in moto una politica che era stata accantonata dal Partito Democratico alla sua nascita, cioè una politica di coalizione più larga. Bianconero torna domattina alle 8:30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Notizia dell'ultima ora: condono edilizio e piano casa escono dal decreto mille proroghe perché questioni non omogenee alla materia e prive dei requisiti di necessità e di urgenza. Lo ha detto il senatore Vizzini, presidente della Commissione Affari Costituzionali, impegnata nell'esame del provvedimento. E intanto Intanto il premier Silvio Berlusconi prosegue la sua visita in Israele. Il mio sogno, ha detto ieri, è che entri nell'Unione Europea. Oggi incontri bilaterali in vista del discorso di domani alla Knesset. Affrontiamo tutti questi temi, come abbiamo fatto ieri, in diretta con Ugo Tramballi. Ugo, buona giornata. Buongiorno. Ugo, forse partiamo dalle parole di ieri. Che peso specifico hanno avuto, che conseguenze possono avere le parole pronunciate ieri da Berlusconi? Beh, riguardo all'entrata di Israele nell'Unione Europea è solo un sogno peraltro condiviso solamente da Berlusconi e da Marco Pannella, che, per il quale è sempre stato un cavallo di battaglia da tanti anni, perché non solo la gran parte dei membri dell'Unione Europea non hanno nessuna intenzione di avere Israele fra i suoi associati, non perché Israele non sia una democrazia, ma perché nonostante sia una democrazia Israele da 44 anni occupa un territorio di altri e quindi sarebbe imbarazzante per i canoni, i valori dell'Unione Europea, ma soprattutto perché lo stesso Israele non ha nessuna intenzione di entrare nell'Unione Europea. Israele si sente molto più alleato degli Stati Uniti che dell'Unione Europea, l'Italia forse è l'unico vero paese veramente amico di Israele. E soprattutto Israele non si sente di condividere, come dire, anche tutti i suoi segreti militari, che in qualche modo prima o poi dovrebbe condividere se entrasse in Unione Europea e poi intraprendesse un cammino verso anche la NATO. Israele ha i suoi segreti, ha le sue strategie, ha il suo modo di coordinare e di gestire le sue forze armate, che sono fra le migliori al mondo, e quindi dubito molto che se mai fosse possibile da parte europea Israele accetterà un invito di questo genere. Senti, oggi dicevamo incontri bilaterali soprattutto in vista di questo discorso di domani molto atteso. Sì, il discorso di domani sarà probabilmente un discorso così generale, un discorso pieno di ideali. È la prima volta che un Presidente del Consiglio viene invitato a parlare alla Knesset, quindi Berlusconi probabilmente ribadirà il no all'antisemitismo in Europa, ribadirà il no ad Ahmadinejad, anche se naturalmente non cesserà di fare di avere rapporti importanti, rapporti economici con l'Iran. Sarà un discorso probabilmente sui valori, sul piano politico, la parte politica si svolge oggi e sarà soprattutto più che politica quella economica. D'altronde Frattini e Berlusconi, come dicevamo anche ieri, hanno il compito di cercare di spingere Israele, essendo così amici di Israele noi come lo siamo adesso, di spingere Israele con più forza verso la ripresa della trattativa della pace, cosa che dirà probabilmente domani Berlusconi anche ad Abu Mazen vedendolo a Betlemme, e passando Berlusconi poi andando da Gerusalemme a Betlemme vedere molto bene la brutalità del muro che divide appunto Israele dai territori palestinesi. Grazie ad Ugo Tramballi. E proprio come Ugo ci diceva, a margine della visita di Berlusconi si registrano le sollecitazioni del premier Netanyahu affinché l'Italia riduca il suo interscambio commerciale con l'Iran. Il nostro paese infatti è il secondo partner commerciale europeo di Teheran dopo la Germania. Il Jerusalem Post ha chiesto spiegazioni in merito alla costruzione da parte della società italiana Carlo Gavazzi Space di un satellite per le comunicazioni che si teme possa essere attrezzato per lo spionaggio. La Farnesina e l'azienda interessata smentiscono. Maria Luisa Pezzali ha contattato Roberto Aceti, che è il direttore generale della Carlo Gavazzi Space. Noi non siamo coinvolti a nessun titolo, in nessun modo. Purtroppo noi siamo tirati in ballo, in quanto in passato, nel 2003, a seguito di un bando internazionale, noi abbiamo vinto questo bando per la fornitura di un piccolo satellite che avrebbe dovuto fornire dei servizi di telecomunicazioni al paese. Stiamo parlando del 2003, quindi diciamo un'epoca completamente diversa da quella attuale. Tra l'altro si riferiva alla fornitura in pratica di un satellite chiamato effettivamente MESBA, senza diciamo una numerazione successiva. Il contratto però si è nel tempo arenato per delle ragioni che possono apparire ovvie. Il contesto politico è cambiato, il satellite non era più possibile fosse esportato e lanciato. Abbiamo chiesto diciamo alla controparte la chiusura del contratto per causa di forza maggiore. Il satellite MESBA si trova in Italia, presso di noi, è a disposizione delle autorità italiane, non si muoverà da qui. Nel novembre scorso proprio il capo delle industrie aerospaziali iraniane ha dichiarato che l'Italia collaborerà con il MESBA 2. Non siamo noi e nessun altro in Italia, aggiungo, per delle ragioni, diciamo, oggettive. Per poter collaborare ad un progetto spaziale, diciamo, le nostre autorità devono essere coinvolte. Chiunque capisce che ciò è improponibile per questa tipologia di prodotti in questo periodo. Nostro malgrado, il tipo di prodotti che noi facciamo sono prodotti politicamente sensibili e possono anche essere utilizzati per fare della propaganda. Le 13:18, ancora una buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato di legittimo impedimento del quale si sta discutendo alla Camera. I tempi sono contingentati, si dovrebbe votare domani sera. E poi abbiamo parlato delle nuove dichiarazioni da Palermo di Massimo Ciancimino. Dell'Utri ha detto: Ciancimino sostituì mio padre nella trattativa tra lo Stato e la mafia. Abbiamo parlato anche della seconda giornata di visita in Israele del Premier Berlusconi, giornata oggi di incontri bilaterali. Tra pochissimo, come detto, parliamo di emergenza occupazione, ora però subito la questione Telecom, perché le indiscrezioni di stampa relative ad una possibile fusione con Telefonica, che poi è stata smentita da Palazzo Chigi, hanno avuto delle ripercussioni in borsa. In diretta Deborah Rosciani. Deborah. Sì, buongiorno. Ripercussioni talmente forti che la Consob questa mattina prontamente, quando in avvio di seduta il titolo è schizzato di 8,5 punti, ha interpellato il governo chiedendo accertamenti sulle indiscrezioni che sono state appunto pubblicate su Repubblica. Allora, cosa è successo? Che Repubblica sostiene che sarebbe pronto un piano di fusione della compagnia di telecomunicazioni italiana con Telefonica, che è azionista della società attraverso la sua presenza in Telco, la scatola che controlla il 22,5% del capitale. Il governo sarebbe d'accordo sull'operazione che porterà alle nozze e dovrebbe dare addirittura il via libera all'offerta pubblica di scambio che il gruppo spagnolo è intenzionato a formulare in tempi piuttosto brevi. La nuova società sarebbe controllata dagli spagnoli, ma una delle condizioni poste da Roma è che la gestione della rete nazionale di telecomunicazioni resti in mano italiane. Allora, queste sono le indiscrezioni che circolano. Naturalmente, su sollecitazione della Consob, il governo ha prontamente smentito. Ha smentito anche che sarebbero pronti degli incontri con sia gli spagnoli che con gli italiani, mentre ieri il presidente di Telecom, Gabriele Galateri di Genola, aveva detto che in settimana è previsto un incontro della compagnia con il ministro dello sviluppo economico, appunto Claudio Scaiola. Lo vedremo solamente nei prossimi giorni. Nel frattempo però il titolo Telecom, che come vi dicevo era partito a razzo con un rialzo di quasi 9 punti, adesso frena su queste smentite, è comunque ancora positivo di 3 punti. È tutto. Grazie Deborah, e adesso parliamo di emergenza lavoro, parliamo dei tanti tavoli che sono aperti al Ministero. Lo facciamo in diretta con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Ieri il via alla vertenza Eutelia con gli oltre 3.000 posti a rischio. Questa sera a Palazzo Chigi il tavolo sull'Alcoa. Domani poi lo sciopero di 4 ore degli operai della Fiat. La salvaguardia di migliaia di posti di lavoro messi in crisi dalla congiuntura internazionale, al centro dunque delle vicende politico-economiche del paese. Per Eutelia, dopo i primi contatti di ieri sera, si è deciso di rimandare il tutto a un nuovo tavolo istituzionale convocato per il 22 febbraio. Ma oggi qui a Roma è la giornata degli operai dell'Alcoa. 500 del sito industriale di Porto Vesme sono arrivati questa mattina nella capitale, a loro si aggiungeranno i colleghi, circa 200 provenienti dall'altro stabilimento veneto. A partire dalle 14:30 sfileranno in corteo da Piazza Venezia fino a Piazza Colonna, qui daranno vita ad un sit-in ad oltranza aspettando l'esito del confronto di Palazzo Chigi che prenderà il via alle 20:30. Il governo cercherà di far tornare sui propri passi la multinazionale dell'alluminio che, lo ricordiamo, ha avviato le procedure per la cassa integrazione ed ha annunciato la fermata temporanea degli impianti a partire dal 6 febbraio. 2.000 gli operai interessati. Al pressing del governo l'Alcoa ha risposto chiedendo garanzie scritte da parte della Commissione europea. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo. Don Gabriele Sala, il parroco di Paderno Dugnano, la cittadina dell'Interland milanese, sede della Lares e della Metalli Preziosi. Due aziende chiuse quando ancora si produceva, 260 operai senza lavoro, da mesi in presidio permanente davanti ai cancelli. Hanno mangiato grazie alla parrocchia e alla Caritas, che hanno dato cibo e soldi. Cristina Carpinelli ha chiesto a Don Gabriele cosa ha pensato quando domenica il Papa ha parlato dei lavoratori. Io addirittura speravo che lo facesse anche prima il Papa, un intervento del genere. Comunque è quello che ci vuole, perché insomma a un certo momento la soluzione di questi problemi non può essere lasciata ai singoli, tantomeno alle parrocchie, tantomeno agli operai che pagano il conto, no? Se non si muove lo Stato, eccetera, è difficile che questi problemi si risolvano. Qui a Paderno sono 4 le ditte che sono, cioè 2 sono chiuse praticamente e 2 sono in fase di liquidazione. Quindi le famiglie di Paderno comunque sono circa 500. E si apre un altro fronte, il calo dei consumi e delle esportazioni porterà alla chiusura di 4 o 5 raffinerie. Lo ha rilevato il presidente dell'Unione Petrolifera De Vita, lanciando l'allarme dunque su 7.500 posti di lavoro a rischio. Ogni raffineria, ha spiegato De Vita, dà lavoro con l'indotto a circa 1.500 persone. Le chiusure riguarderanno dunque almeno un quarto delle 16 raffinerie presenti in Italia. Un'ultima ora sulle elezioni regionali che arriva da Napoli, dove ci sono, lo sapete, lo avete sentito nel nostro servizio, 2 candidati al momento. Per il PDL c'è Caldoro e per il PD c'è il sindaco di Salerno De Luca. C'è un nuovo candidato, si candida anche Alessandra Mussolini, presidente della Commissione parlamentare Infanzia. Sarà candidata per il PDL al Consiglio regionale della Campania nel collegio di Napoli, lo rende noto la stessa parlamentare con un comunicato. Dunque non è candidata alla presidenza, ma è candidata come consigliere regionale. I centri per gli immigrati sono organizzati su un approccio emergenziale, danno servizi scadenti, le ASL, in genere le autorità sanitarie, sono assenti. Lo affermano Medici Senza Frontiere in un'indagine realizzata fra dicembre 2008 e agosto 2009. Al microfono di Katia Caramelli, Rolando Magnano, vice capo missione Italia di Medici Senza Frontiere. Teniamo presente che la detenzione all'interno di questi centri da alcuni mesi a questa parte è stata portata da 2 a 6 mesi. Sono estremamente scarni i servizi erogati all'interno di questi centri, come servizi di assistenza sociale, di orientamento legale. In molti centri vi è una totale assenza di mediazione culturale. Mentre per quanto riguarda i centri per richiedenti asilo, ho destato sconcerto ciò che abbiamo osservato nel centro di Foggia, di Borgo Mezzanone. Gli alloggi sono costruiti da container abitativi, dove abbiamo visto alloggiare anche 10-12 persone. Stiamo parlando di container abitativi di 25-30 metri quadrati. Antonio Di Pietro a cena con l'ex agente dei servizi Bruno Contrada e una foto pubblicata dal Corriere della Sera. Lo scatto risale al 15 dicembre 1992. La foto ritrae l'allora PM di Mani Pulite, Antonio Di Pietro, a tavola con Bruno Contrada, ai tempi numero 3 del SISDE, un agente della CIA e 3 vertici dell'ARMA. È una di quelle 12 foto di cui aveva parlato già diversi giorni fa il leader dell'Italia dei Valori. Sta circolando un dossier su di me, aveva avvertito Di Pietro, si vuol far credere che io sia o sia stato al soldo dei servizi segreti deviati per abbattere la Prima Repubblica, perché così volevano gli americani e la mafia. È un libro scritto da Mario Di Domenico, ex collaboratore di Di Pietro, che racconta il giorno degli scatti. La tavola è apparecchiata nella caserma del Comando Legione a Roma e poche ore prima era arrivato l'avviso di garanzia a Bettino Craxi. Solo una cena, niente di male, fa sapere Contrada tramite il suo avvocato. Certo è che l'accordo fra i commensali era quello di distruggere tutte le foto. E invece qualcuno non ha rispettato gli accordi e a 17 anni di distanza si riapre, se non un caso, quantomeno una riflessione, anche perché sembra che il pool di magistrati milanesi, colleghi di Di Pietro, non fossero stati avvisati dell'incontro. Per l'ex PM si tratta di una spy story inesistente. Stefano Totoro, GR 24, il Sole 24 Ore. Appuntamento a Los Angeles quando saranno le 14.30 in Italia per le nomination per la corsa agli Oscar e le preferenze dei membri dell'Academy. Quest'anno è stato raddoppiato il pool di possibili vincitori, passando da 5 a 10 candidati alla vittoria finale come miglior film. E in chiusura però noi parliamo di televisione, che non è solo intrattenimento. Gli indici di ascolto sono confortanti, gli italiani vogliono molta informazione e sempre più inchieste. Domenica sera soddisfacente l'esordio su Rai 3 di Presa Diretta, che si porta a casa 2.629.000 telespettatori e il 9,94% di share. Lei che posizione ha? Io 87 proprio, no, non c'è. Ma è solo l'ultimo di buoni esempi nella TV generalista e satellitare. Alessandro Zaccuri, critico televisivo e conduttore di Il Grande Talk. Sono dati di ascolto più che altro costanti, cioè sono programmi che vanno a interessare un pubblico molto riconoscibile e un pubblico molto fedele, cioè pensiamo al caso di Report che ha comunque il pubblico che lo segue con grande attenzione, ma pensiamo anche appunto al lavoro di un giornalista come Iacona che ogni volta che si presenta con una serie di inchieste ritrova da un certo punto di vista il suo pubblico. Non aumentano gli stipendi, non abbassano le tasse e poi ti mettono anche per strada. Ma da dove nasce questo interesse? L'interesse per l'inchiesta è un interesse che sottolinea anche un po' una sfiducia per quella che potremmo dire la filiera tradizionale dell'informazione, cioè è come se seguì, è un effetto del dopo 11 settembre, è rimasto nel lettore, è rimasto nello spettatore televisivo il dubbio che la versione ufficiale non racconti tutta la verità, allora per questo si va a cercare il lavoro dell'inchiesta, che è il lavoro che di solito approfondisce e illumina anche aspetti meno conosciuti. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione, grazie in regia a Fabio Cantadori, vi lascio ad Italia in controluce, il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.